ha l'onore di presentare a lei il volume Il cattolicesimo politico e sociale in Italia e in Germania dal 1870 al 1914, a cura di Ettore Pasolini d'Ancre e Conrad Ecke. E la seconda pubblicazione del nostro istituto, la prima era il primo volume degli annali dell'istituto, ma questo da principio a una nuova serie, perché tratta di un solo tema di, anche questo, di un seminario dell'istituto, il Cardano primo, e credo che è un tema molto attuale. Perché? Perché tutti molti contrasti del nostro secolo hanno le loro radici in questo tempo prima della prima guerra mondiale. Io mi limito a questo cenno, ma vorrei ringraziare le autorità, in primo luogo il presidente del Consiglio regionale, anche il nostro amico onorevole Kessler, e non in ultimo luogo il direttore della casa editrice Mulino. Perché pubblicazioni scientifiche in Italia, ma peggio ancora in Germania, diventano di giorno in giorno più difficili, perché più costose, e l'interesse delle autorità e del pubblico a queste pubblicazioni è così necessario che facciamo questa presentazione pubblica per suscitare un po' questo interesse. Ringrazio lei, signor Presidente, lei, signor Kessler, lei, signor Direttore, per l'interesse che ha avuto per questa pubblicazione. C'ho poco da dire su questo bel libro di cui oggi sono arrivate qui le prime copie. Come già avete sentito dal professor Levin, si tratta delle relazioni e di alcuni interventi che sono stati fatti qui 2 anni fa nel primo di questi seminari che ormai formano già una tradizione trentina. E questo seminario, come avete sentito, trattava i 2 movimenti politici e sociali dei cattolici nell'area italiana e in quella germanica, compresa sempre l'Austria, soprattutto perché tra i partiti e i movimenti cattolici tedesco e italiano il Trade Union molto spesso è formato proprio da quei movimenti austriaci. Qui a Trento bisogna solo ricordare De Gasperi, che è proprio la figura di Trade Union tra questi 2 movimenti. Non era la intenzione degli organizzatori e dei relatori di trattare soprattutto influenze, contatti fra i 2 movimenti. Però la vera intenzione, e non so se ci siamo riusciti, lo giudicherete voi dopo leggendo il libro, la intenzione era di trattare in una visione comparatistica i 2 movimenti, che in un certo senso sono la preistoria della democrazia cristiana del XX secolo. E si è scelto, proprio qui a Trento, studiando questo argomento, si sono scelti i 2 movimenti forse più importanti del movimento cattolico, quello tedesco e quello italiano, i quali certo avevano molte differenze di fondo nelle situazioni storiche nelle quali operavano. Qui la questione romana, il non expedit, la situazione di minoranza in uno stato a maggioranza protestante, che però avevano anche molti punti in comune, come abbiamo visto proprio nelle discussioni di 2 anni fa. Come vedrete in questo libro, sono trattati innanzitutto problemi storiografici. Per esempio, e mi pare in modo molto buono, da Fausto Fonzi per la parte italiana e da Christoph Weber per la parte tedesca, i quali hanno proprio esaminato la storiografia sui movimenti cattolici. E in questo contesto, sia Fonzi sia Zanini hanno anche aperto la discussione con le tendenze più recenti della storiografia, anche con quella marxista, la quale cerca di inquadrare il movimento cattolico soltanto in un angolo di conservazione sociale. I vari contributi trattano problemi ideologici, politici e sociali. Ideologici, per esempio, la lotta dei cattolici e degli ultramontani contro il liberalismo, la difesa e anche i reciproci attacchi, perché questo culturkampf europeo non è stato soltanto una lotta fatta da una parte, una lotta tra due concezioni del tutto diverse della società moderna. La Chiesa cattolica, soprattutto il movimento ultramontano, che cercava di conservare le vecchie strutture politiche e sociali, mentre dall'altra parte i liberali cercavano di secolarizzare il mondo. Sono stati trattati i problemi sia dell'opposizione dei cattolici contro gli stati liberali unitari, ma anche l'argomento forse ancora più interessante della partecipazione politica di più larghi strati della popolazione, alla quale proprio questi movimenti cattolici hanno contribuito, cioè il lento processo di modernizzazione politica e sociale, che è proprio sintomatico per tutto l'Ottocento, e questo processo, e si è domandato se questo processo di modernizzazione politica, di partecipazione politica, sia stato soltanto ostacolato dai cattolici, oppure se i cattolici abbiano in qualche modo contribuito a questo processo e tramite questo processo se infine abbiano anche partecipato ad un certo processo di democratizzazione della società e dello Stato. Abbiamo visto, e si vedrà da questi testi, che il movimento cattolico aveva un carattere ambiguo. Sotto certi aspetti ha frenato questo processo di modernizzazione, sotto certi altri aspetti, soprattutto nella vita sociale, per le sue organizzazioni, di assistenza, ha anche partecipato ad integrare attivamente i cattolici nella società moderna, mentre dall'altra parte, bisogna ammetterlo, si è creata anche una specie di subcultura cattolica nella quale i cattolici si rinchiudevano davanti alla maggioranza liberale oppure protestante dei vari paesi. Si trattava di studiare un po' gli atteggiamenti dei vertici e della base della Chiesa ufficiale e dei movimenti politici e sociali che sono sorti piuttosto dal basso. Si trattava di studiare tutta quella vasta rete di associazioni che va dal Volksverein in Germania fino alla più piccola cassa rurale delle province di Trento oppure di Bergamo oppure di Venezia. Sono state rilevate anche le carenze che esistono tuttora nella nostra storiografia, per esempio in ordine alla individuazione di nessi tra le realtà economiche e sociali, e così infine non poche di queste relazioni si vede che ci sono ancora molti studi da fare, perché manca soprattutto un profilo sociale dei due movimenti per poter individuare più esattamente chi erano i membri attivi, da quali strati, da quale posizione sociale venivano, quale curriculum hanno fatto, in quale modo sono poi sorti alla vera partecipazione politica in Parlamento oppure nelle associazioni. Carattere ambiguo, dicevo, e con ciò si potrebbe tornare a quello che diceva il professor Ghedini innanzitutto, perché vediamo in molti di questi articoli e relazioni, vediamo anche certe tendenze che anche dopo la prima guerra mondiale hanno caratterizzato gli atteggiamenti politici dei cattolici e piuttosto, se pensiamo al secondo dopoguerra, gli atteggiamenti politici della Democrazia Cristiana, che, come accennavo, è la conseguenza di questo movimento cattolico. Stimolanti sono stati, a mio parere, l'ho visto poco fa, anche queste poche proposte di Guasco per una ricerca sui rapporti fra cattolici e socialisti, perché bisogna sempre vedere chiaro che soprattutto che il movimento cattolico e quello socialista sono stati verso la fine dell'Ottocento e negli inizi del Novecento i primi movimenti politici di massa, e proprio come tali hanno potuto portare dei contributi ad una maggiore partecipazione delle masse alla vita politica. E così forse è stata una logica conseguenza che una volta fatto questo seminario qui, 2 anni fa, poi l'anno scorso ci siamo visti qui per trattare i movimenti socialisti, e speriamo che fra un anno uscirà, forse già più presto, uscirà anche il secondo volume di questi seminari, in cui in modo simile a questo, da specialisti di tutte le due aree nazionali, sono stati trattati dei problemi della nascita, dello sviluppo, della integrazione del movimento socialista nelle società e negli stati, sia in Italia sia in Germania. Come ho sentito dal professor Prodi e da altri membri del comitato, si pensa a fare un terzo seminario sui movimenti liberali. E mi pare che questo sarebbe davvero, per un primo momento, una logica conclusione, perché così si tratterebbe davvero questi 3 grandi movimenti che nei nostri 2 paesi, e se sono ben informato anche qui nel Trentino, hanno avuto un ruolo determinante. E forse, se alla fine mi sia permesso di fare un suggerimento, si tratta il liberalismo, si avrà la conclusione di questi primi seminari anche in quanto sia il movimento cattolico sia il movimento socialista hanno combattuto il liberalismo. Allora, nelle nostre discussioni c'era sempre un po' indietro il partito liberale, l'ideologia liberale contro la quale si scagliavano il cattolico e il socialista. Però, se noi vogliamo restare, o se voi volete restare in questa visione comparatistica, che è originale, che è una cosa nuova della quale dobbiamo ringraziare molto questo istituto, allora forse si dovrebbe domandarsi poi anche infine in quale modo questi liberali, questi partiti liberali sono arrivati al potere o meno, e così si dovrebbe forse tornare ad un argomento che sembra molto tradizionale, cioè di paragonare la politica bismarckiana e quella cavouriana. Però in verità, dopo aver illustrato queste correnti contro il potere costituito, sarebbe molto interessante di paragonare le grandi differenze che passano tra questi 2 stati nazionali in ritardo. Hanno raggiunto la loro unità nazionale sotto la spinta delle stesse idee, e l'hanno raggiunta anche più o meno nello stesso periodo, come sappiamo tutti. Però le differenze culturali che passano tra una Germania più conservatrice, che però allo stesso tempo, come abbiamo visto qui proprio nel seminario sui cattolici, sa fare una politica sociale molto progredita, e la differenza dall'altra parte tra una Italia liberale borghese, che però resta arretrata proprio perché né i cattolici né i socialisti fanno parte dei processi di decisione politica. Questo mi pare sarebbe in un certo modo una conclusione ancora più logica di questo primo ciclo. Perciò ho già abusato del vostro tempo, ringrazio tutti quelli che hanno contribuito a questo volume, come uno di quelli che ha scritto un saggio, devo ringraziare soprattutto il professor Prodi e i collaboratori di questo istituto che hanno fatto la relazione e le traduzioni e dalla prima impressione che ho avuto in questo pomeriggio oso dire che sia la relazione sia le traduzioni sono riuscite molto bene. Grazie. Se mi è consentito, signori, a nome del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto Trentino di Cultura esprimo innanzitutto un ringraziamento al professor Lin, professore dell'Università di Colonia, che è stato uno dei protagonisti del seminario che oggi viene presentato nella pubblicazione, e un ringraziamento a tutti voi che siete intervenuti, esprimendo anche così come Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto Trentino di Cultura un compiacimento che diventa quasi un auto compiacimento, speriamo giustificato, abbastanza giustificato, perché dopo il primo volume edito, come diceva il nostro professor Iedin, dell'istituto, sugli annali, gli annali dell'istituto, è uscito, viene fuori adesso questo libro che consacra nella stampa il risultato di questo seminario che il professor Lippi ci ha illustrato, direi, in maniera sintetica molto efficace, no? Molto efficace. Questo naturalmente rappresenta e rappresentava uno dei punti un pochino del programma dell'istituto nel momento in cui ci siamo messi a lavorare. Questo per fare in modo che anche il contributo, pur così direi prezioso, che nei seminari, come è quello di questa settimana che si sta ultimando, no? Così che poi rimanga anche stampato in maniera tale che il contributo assuma naturalmente una preziosità ad un valore molto molto più importante. Mi sia consentito qui ringraziare quindi tutti coloro che si sono dedicati poi alla realizzazione anche materiale concreta, che è sempre meno, molto meno così poco faticosa di quanto normalmente si può pensare. Dopo ringraziamo anche naturalmente il dottore Evangelisti, che appunto è quello del mulino, con il quale con la quale casa editrice noi intratteniamo buoni rapporti, così intessuti anche qualche volta così, anche di discussione sui prezzi naturalmente, eccetera, abbiamo detto anche oggi, no? Ma insomma dobbiamo dire onestamente che vedendolo così, a parte che il mulino lo conosciamo, no? Ecco, anche la veste che così attraverso questo anche conferite anche all'istituto storico italo-germanico, direi che insomma è adeguata e conveniente, ecco. Quindi ringrazio naturalmente il comitato scientifico, ringrazio ancora una volta tutti i professori che sono stati gli autori di questo seminario, ringrazio naturalmente in modo particolare Prodi e ringrazio anche, non tanto alla fine, anche la signora Siera, insomma, che sappiamo sono quelle parti che così figurano un pochino meno, ma che sono essenziali per un risultato buono, qual è quello che noi ci auguriamo possa essere giudicato qui. E così come Trentini, diciamo anche, dico anche, un pochino polemicamente, auguriamo il signor Presidente Margonari, no? Dico la provincia che ci mette tanti soldi, eccetera, per queste iniziative e questo istituto, auguriamoci che anche i nostri trentini, certa classe, classe trentina, vedendo un libro anche rispetto così bello, oltre che di un contenuto così, eccetera, via via aumentino l'interesse e la presenza e la partecipazione a questo lavoro, all'attività dell'istituto, che è fatta naturalmente sul piano generale, bisognerebbe, insomma, noi ci auguriamo che sul piano locale anche così fruttifichi un momentino di più. Ecco. Detto questo, ringrazio ancora tutti e auguriamo che tutti insieme, l'amministrazione comunque è pronta, che quello che adesso diciamo è la pubblicazione del primo seminario, come diceva il professor Lin, possa uscire poi la pubblicazione anche degli altri seminari e degli altri lavori dell'istituto, in modo tale che l'attività complessiva dell'istituto storico italo-germanico, insomma, va assumendo una concretezza e una, così, una dimensione così gradualmente pari a quella che era stata l'aspettativa e pari a quello che è stato anche che è lo sforzo della provincia autonoma attraverso l'Istituto Trentino di Cultura per questa realizzazione culturale. Grazie. Punto perché effettivamente così Quello che voglio dire è questo, cioè che quando abbiamo incominciato la vita dell'Istituto non pensavamo veramente che potessimo arrivare in così breve tempo a concretizzare queste pubblicazioni, che sono state il frutto di una realtà esistente. Ecco, questa è l'unica cosa che ci terrei a dire in più di quanto è già stato detto. Cioè quando abbiamo incominciato i seminari 3 anni fa, e questo è il 7° seminario, quello che stiamo facendo in questa settimana, non pensavo affatto, ecco, che il lavoro dei seminari potesse concretarsi anche in pubblicazioni scientifiche, diciamo, complete, rifinite, come quella che presentiamo oggi. In realtà è nato così, che abbiamo visto come le relazioni fatte, le discussioni attraverso cui queste relazioni passavano, perché non si tratta di puri referati così, di un pubblico, ma si tratta invece appunto della presentazione di tesi ad un pubblico di ricercatori delle due aree già interessato ai temi, e quindi di relazioni passate al vaglio di una discussione durata un'intera settimana e che ha dato alle relazioni stesse molte volte anche degli apporti che non sono separati, perché non abbiamo pubblicato tutti gli atti della discussione, sarebbe stata una cosa troppo pesante dal punto di vista organizzativo e finanziario, ma che sono entrate all'interno delle relazioni, proprio vorrei dire, insomma, e hanno fatto contribuito a far sì che questi contributi assumessero la veste di contributi originali che abbiamo stampato appunto non in quanto così ovviamente. Questo siamo contenti, l'Istituto attraverso questa ha una sua presentazione all'esterno e dimostra una sua ufficiale presenza nel mondo della cultura, ma anche perché rappresentano molte volte proprio degli spunti originali, dei passi in avanti, insomma, ecco, nella conoscenza dei singoli settori, sia per la validità appunto degli apporti dei relatori e delle discussioni, anche per il taglio che il punto di vista, l'angolatura da cui ci mettiamo, cioè quello della storia italo-tedesca, non vista solo puramente in senso comparativo esterno, ma nel senso proprio, direi, più interno, insomma, ecco, ci ha permesso di raggiungere sostanzialmente. Quindi esiste un fattore di novità che è, diciamo, che ha le sue radici nella vita stessa degli istituti. Questo è il concetto un po' che mi permetteva di esporre, e la vita che abbiamo davanti nelle pubblicazioni a stampa, sono già praticamente programmati in stampa un secondo volume degli annali e sono programmati grosso modo in modo diverso altri 2 volumi già, e qui abbiamo 4 volumi più o meno già di questi nostri seminari che sono predisposti nella collana a fianco, praticamente direi pronti per andare in stampa o vicini a essere pronti, e questa è la testimonianza di una vita che credo possa avere davanti a sé, insomma, ecco, alcuni anni almeno ancora sicuri così, di produzione attiva, e quindi in questi anni appunto ci sia il tempo e la volontà. Una volontà che abbiamo visto come volontà anche politica da parte della classe dirigente trentina di fare di questo un qualcosa appunto che possa lasciare un segno anche nell'attualità, insomma, oltre che essere un bello, prezioso oggetto di ricerca per eruditi. Ecco, l'aspirazione di questo istituto è proprio quella, particolarmente anche nei momenti difficili, di riuscire a costituire appunto un filo, un simbolo, un elemento di unità fra le due culture. Grazie. È un modesto rinfresco, mi si dice, qui sul terrazzo.